tanto è stato fatto, è tanto è grande. Poi già la conosciamo con la radio, già si sa come va, non c'è bisogno di cosa, come va, l'abbiamo ascoltata tante volte, come hai detto tu, ce ne sono ben poche di radio in grado di avvicinarsi, non dico a superarla, di avvicinarsi, parliamo su questo tipo di bande. Beh, ma è l'incisività che ha una radio che vuole in ampiezza modulata, in FM, ma anche in banda laterale, è assurda, capito? Proprio è nata così, è una radio la che ha sempre fatto sia in alta fedeltà, correggetemi se sbaglio, per quanto riguarda la parte audio, radio per capirci, per cantare, e sia non c'è niente per me, ho fatto mille prove con mille microfoni, mille scambi, ho provato con microfoni Icom su Iaesio su Icom, Kenwood eccetera, ma alla fin fine avere una radio del 1980 come questa è mettere il suo microfono a tavolo senza fare nessuna connessione, nessuna batteria alimentata lì diretta, e avere questo tipo di timbrica e di modulazione, togliamoci alla testa, non c'è Iaesio, non c'è Icom, non c'è nessuno che sto parlando, non c'è niente, dobbiamo fare quello che io sta 100, 400 euro per comprare un baracchino da bello. Però sempre un baracchino è, spendete 300 euro, ti fai un bel 140, con 100 euro in più ti fai un 440, ma almeno sai che puoi avere il massimo, il top di quello che ha voglia di parlare, ecco, sia come ricezione, sia come colpi, e sia come trasmissione. Non sbaglio, Giovanni? No, assolutamente, sempre però interfacciandolo correttamente, e a prescindere anche dal fatto che cioè il soggettivo secondo me a un certo punto, giusto come dici, non esiste, perché la Ferrari piace a tutti, però ci sono dei punti deboli che arricchivo, beh attenzione Claudio, ad esempio il rumore che fa in banda in basso è intollerabile, io parlo in ricezione, io non lo sopporto, certo non è silenzioso come in TR4C in ricezione, manco se si ammazza, su questo non ci piove, però il resto tanto di cappello al modulatore è la sezione finale, no, non ho visto zitto, però bisogna sempre saperlo interfacciare, e ripeto, ritorno a dire che non è una cosa così che uno lo butta su e lo fa andare, non è vero che va, sì uno prova, però bisogna farlo molte volte anche al suo timbro di voce, ad esempio quello che mi stupisce ora, no, non è tanto il fatto che Claudio abbia fatto la regolazione perché conosce la memoria, ma è quel vocione che ha capri due, no, che alla fine è rientrato nel range della buona, dell'ottima ascoltabilità, perché un risultato deve essere un buon risultato, un risultato non serve, e un risultato non serve, questo è un buon risultato, ritorniamo sempre allo stesso punto, e dai, è che bisogna conoscere, tutto lì, non so Claudio, mi sbaglio? Assolutamente no Giovanni, assolutamente no, non ti sbagli neanche dicendo ciò che hai detto della ricezione, perché io ad esempio ho 440 o 140 lo Iaesio, quindi due keyboard Iaesio Icom, praticamente su tre digitali, l'ultimo generazione che è il 7004 della Icom digitale, tu immaginati che io vado con una linea della Ricraft, in HF io vado con una linea della Ricraft, il microfono è Gianni per capirlo, per capirci quello che mi ha dato tu, quindi col partner della linea, una linea valvolare, proprio per far sì, come hai detto tu Giovanni, che sparisca tutto quel similare di rumori, di gracchiare che lo fanno, no? Ma anche tale, quindi non dice bene, ma col 440 e col 140 io in HF non li uso assolutamente, li uso così 10 metri ma giusto a livello locale. Il 140 per me è un baracchino, io questo, il 140 per me è un baracchino, la sintonia continua, questo c'è la linea completa e lavora solo esclusivamente in 27, capito? Però per capirci, come hai detto tu, io per avere la massima ricezione in questo momento o uso il 7400 che c'è al 10P oppure vado a lavorare con le valvole che mi elimina tutta quella sporcizia che c'è nella ricezione di queste radio a questo livello, insomma, ecco, parliamoci chiaro, quindi 140, 440, che, attenzione, io va, il 440 che c'ho io, e anche credo quello che c'è a Capri, hanno i filtri, io ho tutti i filtri in FM, AM e SSD, e un po' mi smorta la cosa, a differenza del 140 che i filtri non ne ha, e se rompi una bruttura, mi detto in gergo, proprio sporcaccione, vai Roberto. Sì, no, ma qua stiamo parlando, paragonato a un normale Giovanni, paragonato a un baracchino, c'è gente che spende 300 euro per un baracchino, ma quando gli altri di 100 euro in più fa un salto impressionante qualitativamente, sia come ricezione, non ne parliamo, che come trasmissione. C'è la possibilità di utilizzare tante cose che di lì nel baracchino non te lo permette, qua giri il manopolone e vai in continua. Come ha detto Claudio, ci sono quelli con i vari filtri preimpostati, con altre funzioni che il baracchino se ne sogna. Rispondo io. Lasciamo perdere i baracchini che sono delle scatole di scarpe. A meno che non si tratti di un pace come questo, che comunque un baracchino, ma ascoltarlo è molto più un HF che un baracchino. Ma stiamo già parlando di un apparato solo dedicato alla M, ma escludiamo i baracchini. Io invece mi interessava rispondere a Claudio una cosa, piuttosto che rispondere di una scatola di scarpe. Claudio, il DSP, e lo sai anche tu che così, no? È Digital Signal Processing, praticamente campiona in intervalli di tempo quello che è l'audio, va bene? Questo per i DSP audio, quelli a frequenze intermedie, praticamente che lavorano sull'IF dell'apparato, il campionamento avviene sempre dopo la IF e comunque arriva sempre in banda audio, cioè praticamente campiona solo esclusivamente la voce ricevuta a intervalli di tempo regolare. Ci sono 16 bit e 32 bit a virgola mobile. Problema, quando il campionamento inizia, comunque non sarà mai come la ricostruzione completa di una sinusoide di tutte le sue armoniche, per cui ti troverai sempre con un apparato che sicuramente ripulisce, perché esclude tutto ciò che non gli interessa, ma esclude anche quello che interessa, in senso che la voce non sarà più completa, ma sarà leggermente diversa, è a volte robotica. A meno che uno si compra un DSP da 100.000 euro, allora iniziamo a parlare, ma si sa che un segnale sinusoidale trattato tramite un chips digitale, campionato così, ha comunque i suoi difetti. Piuttosto parliamo invece dell'800, del Kenwood, che quello dovrebbe essere molto molto meglio del DSP secondo me, accontentandoci di avere qualche piccolo rumorino, vedi? Ma già sempre manipolare il segnale audio con apparati digitali non è bella cosa, capito? Io volevo arrivare a dirti questo. In effetti, se devo paragonare, la ricezione del TV4C preso come esempio potrebbe essere chiunque, adesso non stiamo lì a dirarla, che come giro appunto il receiver gain, che è praticamente il controllo di guadagno, no, non il controllo di guadagno, io chiudo praticamente la ricezione in un determinato modo, no, elimino tutti i rumori, ma la modulazione è quella, cioè ciò che arriva dall'audio non è stato tolto niente. Questo è il bello della valvola. Perché? Perché la valvola è l'unica che riesce a scindere il suono dal rumore, lo fa in hi-fi IF e lo fa giustamente sulla parte BF di un ricetrasmettitore che comunque è sempre nel canale audio, Claudio. Tutto lì, ecco, no, volevo spiegare questo, da far capire, proprio che si capisca bene che il DSP sì è utile, ma deve essere un DSP minimo a 64 bit a virgola mobile, non più a 32 ma a 64, dai costi eccessivi, come hai detto tu, ultimissima generazione, con una computerizzazione allucinante. Questo non è una cosa semplice da trattare. Avanti Claudio. Fanni, sì, stai trappando, non ho capito, cosa hai detto? Tiscali.it, Fanni, Tiscali.it. veramente eccezionale, perché io avevo la linea Drake, avevo la TR4C, anzi TR4B, qui ho avuto TR4C, però questa la ricarte superiore, tranquillo superiore, perché ha qualcosa in più forse nel sistema ricevente che la linea Drake non ha. E soprattutto in trasmissione, se tu la senti in trasmissione già oltre 200 watt fa paura come modulazione, capito? Ok, microfono per Roberto, poi vai per KP2 Roberto. Sì, hai trovato una persona estima, stavamo parlando anche ieri proprio di valvole, come cosa. Poi a me ne ha parlato di vecchia concezione con i manopoloni e tutte le cose che piacciono tu. Adesso stanno prendendo di piega questi tutti totalmente digitali con interfaccia tipo il computer, sono belli, appariscenti, però quando ti giri una manopola e senti il rumore del coso, del potenziometro, è una sensazione diversa. Quello che mi hai fatto vedere tu è veramente bello, quello che c'avevi in macchina, che mi avevi, quello lì, stiamo parlando di quello qua. Sì, sto parlando di quello. Non si scherza, ma non perché sia io, ma molti radioamatori stanno cercando linee Drake, linee Alicat, chi ha un po' di quattrini, in più linee Collins, proprio perché sta tornando la mania della valvola. Quindi insomma, ma come diceva Giovanni appunto, perché lavora in una certa maniera, perché puoi stringere e allargare la banda, se hai bisogno del DSP che vai a lavorare con un sistema digitale molto complesso e molto, molto più delicato. Io, grazie a Dio, dopo 40 anni so usare uno e l'altro, però preferisco, come ha detto Giovanni, andare sempre sul vecchio e non avere problemi. Capri, a te. Ok, perfetto. Adesso scusa Giovanni, che mi parlo un altro passaggio a Claudio. Sì, quelle cose di adesso, io anch'io ho comprato un po' di un telefono, fammi se lo faccio e me lo fai. Una cosa da fare il numero, i tastini piccoli, ciao, questa roba, una cosa da fare il numero mi viene bene. Per dirvi, quelle cose con i manopoloni anche a me mi sono sempre piaciute. Adesso qua, effettivamente, posso sapere quanti watt ero a quel trasmettitore. Vino mi diceva 100, ma qualcosa in più tu mi avevi detto, così è? Sì, non gridare, però tieni conto che non devi sempre gridare, quello scrivitelo davanti, non devo gridare. Sì, ero allora il tuo trasmettitore, il primo trasmettitore che mi hai dato tu, che l'ho provato solo senza ricevitore, quindi senza accoppiamento né niente, a carico fittizio ero da 140 watt. L'altra che ho preso con che è sempre il KT46 come trasmettitore, l'XT 146 come ricevitore, l'XT l'SX 146 come ricevitore, l'XT 146 come accoppiamento di linea, quindi come strumentazione, quello era da oltre 180 watt. Adesso la mia risposta è questa: può darsi che il tuo trasmettitore abbia un po' le valvole esaurite e quello che ha delle valvole un po' più nuove, ecco, il sistema è quello, perché le ho controllate, le valvole sono uguali ai capri. Sì, ok, perfetto, non fa sapere che quanto lo guardo, non capito, io sono sempre affascinato, hai capito, di quelle cose, anche della partenza, ma non fermi, io avevo visto che il ricevitore è preciso identico al trasmettitore, confermi, no? Uguale, precisi, sono tre pezzi uguali, precisi, identici. Uno è il KT46, quindi trasmettitore, KT, P è come trasmettitore. Il ricevitore è l'SX, quindi ricevitore, no, 146, SX. L'altro invece è X146, che è lo strumento grande tipo l'MN2000 della linea Drake, per capirci, che ti dà praticamente tutto l'accordo. Anche il ricevitore ha lo strumento grande come il trasmettitore, che ti dà praticamente strumento di linea che ti indica tutto assieme, potenza, la cosa che tu hai fatto tutti gli accordi, stai trasmettendo, ti eroga la potenza, quindi tutti i watt e le stazionarie che c'è in antenna, quindi un rosmetro watt e metro di linea come può essere quello della linea Drake. A te, Giovanni. Ecco, si rispondo volentieri al punto. Allora, il Crafter innanzitutto è una linea eccezionale e niente da dire, tanto di cappello. Stiamo parlando un po' come fosse una Aston Martin, una 12 cilindri. Ecco, il paragone giusto è questo, no? Paragonato a un Drake, il Drake potrebbe essere il Porsche, il T900, che ha prestazioni per un certo verso superiori e per un certo verso inferiori. Comunque sono due apparati che non c'è niente da discuterci su. Per quanto riguarda la potenza, invece il Drake, almeno il mio, allineato correttamente con le valvole selezionate, tutte e tre, ma non per feticismo, perché lì ha bisogno, per quanto riguarda l'effetto Miller, che viene neutralizzato appunto pari per tutte e tre le valvole. E la potenza erogata 3.5 sono 300 watt e pass, 2.70 sono i 7 MHz, poi a salire naturalmente c'è la scalata. Ma la potenza massima l'ho visto io 310, anche 315. L'elicrafter dovrebbe essere riparato perché dà più potenza tranquillamente. Non ci sono problemi, ma stiamo sempre parlando di mostri sacri. Non stiamo più parlando di scatole di scarpe, di paracchini, ma stiamo parlando di macchine serie, di macchine che danno e che possono dare ancora di più, se ben allineati, se ben tenuti, ovviamente, che non siano scacciavizzati da molestatori, come si dice, indigeni, capito? Delle isole così andorre, o qualcuno che si improvvisa di questi, che ne ho visto tanti arrivare qua disintegrati. Ecco, ma ripeto ancora, purtroppo sono apparati molto particolari, ma se ben allineati, gli helicopter non si possono mettere in discussione. Poi non parliamo del Collins. L'unico neo del Collins è quando si sfascia la rete di commutazione. Allora bisogna farsi frustare di notte all'1:15 e farsi mettere il sale, perché tirare fuori quelle lette è una cosa spaventosa, il K1 così delle, mamma mia, no. Collins è bellissimo, favoloso, è speciale, però è complessissimo, nella sua semplicità apparente è stracomplesso. Del resto ti posso solo fare i miei complimenti, Claudio, per una linea del genere, che cosa vuoi che ti dica? Non ti faccio i complimenti per il Kenwood, perché sai benissimo che a me mi piacciono e non mi piacciono. Faccio complimenti per quella linea, perché se quella linea riesce a metterla a punto bene, ciao, buonanotte. Trovo i tubi selezionati. Attenzione che è molto importante questo, non siamo in bassa frequenza. Verrai Claudio, a te ancora. Sì, un attimo, riprendo io, che sono arrivate notizie. Vi saluto per il momento, poi riprendo dopo cena, sono in radio. Buona carità a tutti, se non l'avete fatta, e per il momento così vi devo salutare, se no si freddano. Ok, ciao a tutti. Ciao Carpe, buona cena, non la spegnere con la radio sino a quando non termini di trasmettere, così rimane bella allineata. Ok, ti faccio salutare da Roberto Vero. Sì Gianni, ben sentito, buona carica, anche io tra pochi minuti stacco anche io perché sta iniziando a macinare lo stomaco, per cui devo nutrirlo, ok, rimango qualche minuto, sto ascoltando la conversazione e poi chiudo anche io. Ciao ciao, di nuovo alle prossime Gianni. Ok, allora, ma non solo Giovanni, non solo, attento, che io la linea di classe è arrivata da poco, perché ripeto, mi ha dato l'input Capri dandomi questo trasmettitore, quindi mancava recettore eccetera, ma giusto per collezione, che l'ho visto bellissimo, se me devo mettere alla caccia del recettore, mi sono fatto la linea completa, avrei un sacco l'abbinamento anche delle FR 50.000, che il ricevitore è di linea, sempre della linea Sommer Camper, che quello fa poi testa alla fine, quindi linee di due, uno della Sommer Camper e uno della Licat, completi naturalmente di microfoni, completi di microfoni. Quindi la passione è questa, non tanto avere quelle linee lì, ma saperle anche usare, perché come insegni non siamo in bassa frequenza, lì se sbagli paghi, tanto è vero che quello si fa accendere, prima si tiene un pochino in stand by, dopodiché si inizia a fare col selettore di banda il preaccordo della prima nodica e pian pianino, senza avere molta potenza, iniziare a farla scaldare. Dal momento in cui tu hai già fatto il preaccordo, quindi sei già in banda diretta, inizi pian pianino a farci levare la potenza, perché lì se sbagli col preselettore tu mi segni che ti si copre rotto, ti lesa a conca e se muoio. Sì, beh, non è roba da dare a gente così che praticamente fa sport suicida, no, no, lasciamo perdere. Beh, diciamo che il drink è più permissivo, perché una volta impostata la corrente di maglia sulla corrente di riposo è un po' più permissivo, ma naturalmente se l'operatore radioscalmanato fonde tutto comunque, nonno. Sono macchine indistruttibili se sapute usare, e poi si possono anche distruggere se usate male, ecco. Il transistor comunque è peggio, il transistor è peggio. Se lo fai ad esempio con il TR7 della Drake transistorizzato, qualcuno ha avuto dei grossissimi problemi sulla sezione finale, nonostante sia una grossa e robusta sezione finale dotata di quelle protezioni, eccetera, eccetera. Bisogna stare attenti con le radio, Claudio, non è che uno si compra all'Aston Martin 12 cilindri e poi passa in un fiotolo di campagna, non mi pare una cosa normale, e neanche sarebbe normale customizzarsi la macchina e poi cadere nei tombini, questo è il problema. Le persone che usano le radio lo devono fare con veramente con conoscenza, secondo me. Tutto lì, perché come bene potete ascoltare, io adesso stasera non perché mi interessi, anche perché io sono uno che la radio la vede o non la vede, anzi non mi frega nulla per essere più esatti, sto usando un patch, il CB166, e ritorno a dire, è una scatola di scarpe che però è fatta con crismi diversi dalle scatole di scarpe odierne, anche qualche scatola di scarpe di qualche anno fa. Si potrebbe definire già un semi HF, solo AM, e vedete come modula, e come riceve, ecco Claudio, volevo dirti questo, riceve con una bellezza, splatter, niente, è molto molto selettivo come apparato, ovviamente parliamo sempre di una scatola di scarpe barattino, ma a prescindere, bisogna anche saperlo usare, ho corretto delle cose che dovevo correggere, l'ho messo in sesto e pare che anche questo, ritorniamo sempre al discorso dell'analogico, che chips qua non ce ne sono, ci sono solamente degli integrati, serie HCF eccetera, per la logica di funzionamento, logica diciamo per la digitalizzazione del PLL appunto, perché questo è un digitale sintetizzato, ma un digitale dolce come lo chiamo io. Claudio, le radio ognuna ha le sue caratteristiche, però vabbè, ritorniamo a dire, escludiamo le scatole di scarpe, perché sicuramente una manopola della Lecrafter funziona molto meglio di 100.000 paracchini messi in pila uno sull'altro sino a diventare alto quanto un palazzo. Avanti, Claudio. Si conferma, vai Robè, così poi ce ne andiamo a pappare, se già le 9:10, vai Robè, ripeti. Sì, vabbè, dai, devo interrompere anch'io, dai, vi saluto, credo che anche voi andate a mangiare tra un po'. Ok, buon tutto, buona carica e ci sentiamo le prossime. Ciao Gianni e Giovanni in questo caso e Claudio, ciao. Fatti sentire Mari se capite in zona là. Se capite là, ci devo passare per portare della roba e poi dobbiamo vedere quelle cose lì. Quindi va tranquillo che già ci passo io. Non c'è problema, ciao, buona cena, grazie alle due chiacchiere e ci sentiamo. Sì, io va, concludo, dici che ma c'è partito, infatti se non è magari per quelli che non ci ecco, le chiedo sapere perché non ho avuto io, se no tutto è no, pure mi è tutto, attacco, non è stazioni anodiche tipo 1600, 2005, 3 kV, lasciamo stare. L'LB della Drake, lo conosce la LB4, sono dei mostri sacri, o come l'altro, che è la vecchia pubblica, la sera, no, sono quelli che realizzano anche in cui all'inizio, dice non è vero, non è vero. E lì ti do perfettamente ragione. Va bene, buon appetito, grazie delle quattro chiacchiere, ci ascoltiamo le prossime e salutami lì la linea Alicrafter. Grande macchina e auguri. Grazie Giovanni, e anche tu non scherzi. Io ho usato la Drake, quindi so perfettamente di cosa parlo. Dai, vado a cenare, se coincide più tardi, altrimenti ci sentiamo. Ciao. Adesso io sto tenendo lo spinottino, adesso lo sto tenendo, sembrerebbe che non sento nulla, mi confermi? Sì, dai, sul Mac potrebbe essere chiamato dalla connessione all'apparato, se magari c'è qualche filo, oppure qualcosa che va a farti rientro, capito? Sì, già, probabile sì, perché sicuramente stavo tenendo un attimino. E appunto darsi che sia dallo spinotto del mic, ma oppure dal cursore qui della portante del microfono, del tasto, uno dei due dovrebbe essere. Dovrei fare prendere il microfono normale e provarlo. Ma scusate, una cosa, cos'è un microfono amplificato? Questo è un microfono da palmo amplificato. Prova a passare l'amplificazione, dai. Di questo qua adesso per abbassare l'amplificazione devo aprirlo da dentro. Si posso abbassare leggermente il microfono. Ecco, adesso ho abbassato a 3/4. Prima era manetta, adesso a 3/4. Sì, adesso va bene. Sì, magari troppo amplificazione, quindi ti fa magari qualche rientro, un zio, non è, capito? Io adesso l'ho abbassato, sta da 3/4, perché se lo dovrei aprire da dentro, c'è un trim di plastica, bisogna abbassarlo, no? Leggermente, questo è quello che c'è anche un po' di eco, ma io non lo metto perché non esiste la pista, lo vedo. Ho capito, quello è quello grigio, DM? No, rimane nero, e l'M300, quello della Intec, la presente, c'è il cursore lungo davanti per l'eco, però dentro si può regolare anche la ripetizione dell'eco, e in più c'è l'altro trimmer che serve per l'amplificazione della modulazione, non regolabile esternamente, solo l'eco si può regolare esternamente. Non lo conosco come mic, lì è tutta questione di regolazione. Va bene, ok, dai, ti lascio, vediamo, mettere un po' a posto di roba, poi andiamo a portare il signorino a fargli fare la passeggiatina notturna. Va bene, ciao Gianluca, ci sentiamo, eh? Sì, ok, sta, buon proseguimento. Vediamo adesso, sì, io sono ancora un po' preoccupato e nascosto, perché faccio un attimo, magari, per la mattina, mettiamo a terra in fretta, perché non si è fatta velocemente, giusto? Di nuovo, dai, alle prossime, ciao, buon tutto. Certo, ciao. Ci ripartiamo e ci installiamo. Dalle 4:27 è un casino, entra alle 27 quando poi non va neanche la pena, ma di là siamo tutti quanti tranquilli e basta entrare, che lo sai, quando vuoi ascolta e non c'è problema. No, qualsiasi persona, cos'è l'EPD, cos'è? UHF, se vuoi sapere, UHF. Ma il UHF non c'è, insomma. Tutte contentare, sono frequenze libere, sono molto canali, qual è il problema? Non ho capito. Entra, che divertirsi, almeno siamo una bella volta, siamo uomini e donne, non c'è problema. Siamo tutti quanti XCP, quindi ci divertiamo. Capito? Io ce l'ho l'apparecchio per questa roba, dimmi la frequenza. Senti, mi dico al telefono, non ti dico il baracchino, se no ho capito, entrano tutti, quindi... Ti telefono io, non ti preoccupare, Gianni. Almeno ci ripetiamo un pochettino, non ti entrare qua, la verità, almeno ci prendiamo un divertimento. No, proprio, dai che non posso entrare, però sono, cioè, sono accetti la verità, non è che siamo, non posso entrare, comunque sia. Ci mettiamo un pochettino là, perché chiamo io al telefono e ti dico che frequenze sono e ti chiedi un fatto una testa, con tua prima, tra il giorno. Tutti e due frequenze, siamo qui, cioè frequenza di PD e anche PMR, quindi non c'è problema. Io certamente, io sono sempre la legalità, va bene, nel capito, poi vediamo com'è. Comunque, io sono il tipo che nego l'asino che c'è il padrone, capito, sono uno che i giochi non li sconcia, li aggiusta e che, però, diciamo, io sono stato dal 27, dove non voglio fare cose che non siano, che non siamo nella legalità, hai capito? Qual è il problema, scusa? Siamo sempre dal 27, in teoria, quindi. Sono sempre nella legalità, non è che stai facendo niente, nessuno, quindi se vuoi entrare, sarà qua, di là. Siamo amici, cioè amici e anche amici, quindi della 27, se vuoi entrare ci sentiamo, se non pazienza, non cambia niente. Ok, me lo dirai in verticale, questa era quanto è, vogliamo parlare a far radio, in verticale me lo dici e se parteciperò anche io, perché non partecipare. Bene, Antonè, buonanotte per il momento, salutoni e buon tutto per domani. Ci sentiamo là, salutoni, ci sentiamo, diciamo, e poi ci facciamo tre auguri al limite in loca est, là, sui canali che sono, ce ne sono più di 24, là, non ho dato, se cerchi, già ci può, non ti preoccupare, d'accordo, a me bene, buonanotte. Ti ringrazio di tutto, va. Sono veramente contento che sei stato in... Se ti piace con la parecchia, sono contento con la, veramente. È stata una cosa giusta, la verità ti dica. Quindi, te l'hai meritato, che te lo meriti. D'accordo con me, sì, me lo merito. C'è altre cose anche più importanti degli apparati, però... Diciamo una cosa, piace il collezionismo, hai capito? Una roba che è in voga e l'ho presa così giusto per la perla, non è quello come che fa l'abito, diciamo, per il conaco, hai capito? Però c'è adesso il fax, ce la godiamo, quanto ce la possiamo avere. Di nuovo ti saluto, buonanotte e saluti al QRA. E io chiudo ancora perché proprio domani mi devo fare sempre alla solita ora, alle 6 sono in piedi. E saluto di nuovo tutti gli altri amici sul canale 5, Capri 2 passa in quelle di SK, chiudo le trasmissioni per non riprendere. Ok, ciao Antonè. Ciao ciao, ci sentiamo alle prossime. Allora tu siamo di là, non ti preoccupare. Non c'è problema.